Ed eccoci con Rosario Mastrota della compagnia Ragli per parlare di una nuova esperienza teatrale romana, ossia il Teatro Accademia Popolare dell'Antimafia e per i Diritti. Rosario, ben ritrovato intanto. Ciao, ciao Federico e ciao a tutti i tuoi ascoltatori. È sempre un piacere tornare da te. Eh sì, visto poi che con te abbiamo portato in radio alcuni vostri lavori, tutti riguardanti in qualche modo la criminalità organizzata, c'era la nascita di questo nuovo spazio e allora chiaramente ce ne parlerai perché ci sembra quantomeno interessante. Sì, guarda, una bellissima sfida che abbiamo accolto noi come compagnia Ragli su indicazione delle associazioni capofila del progetto, che sono l'associazione Antimafia da Sud, l'associazione Diversamente e l'associazione Via Libera, che hanno ideato questo progetto molto bello per la città di Roma. C'è l'istituzione di un teatro all'interno di una scuola, un istituto tecnico, l'Istituto Ferrari, che ha sede in zona Sub-Augusta. Sì. E lì dentro stiamo costruendo un progetto culturale molto interessante, una factory sociale molto interessante, che prevede l'allestimento e la messa a norma di una biblioteca presente all'interno della scuola, una biblioteca di 300 metri quadri che abbiamo riallestito e stiamo per far tornare al lustro che merita, quindi ricatalogando tutti quanti i libri, e che presto sarà aperta al pubblico, sarà aperta a chiunque voglia venire lì per consultare dei manuali e leggere dei libri, e diventerà poi uno spazio anche polivalente dove faremo delle presentazioni, appunto, delle presentazioni di libri, dei concerti, eccetera eccetera. Al piano superiore c'è quest'aula magna, che è l'aula magna della scuola, che ci hanno dato ovviamente in gestione, ci hanno permesso appunto di gestirla e quindi di farla vivere, di portarci degli spettacoli. E come primo anno abbiamo azzardato addirittura l'idea di far partire una stagione teatrale, una piccola stagione teatrale con un appuntamento al mese per adesso, e cominciamo dopodomani, il 9, apriamo la stagione con Forte Braccio Teatro e Roberto Latini, che faranno I Giganti della Montagna versione radio. La serie di appuntamenti, verrà una compagnia milanese, la compagnia Carnevale, che farà un lavoro molto interessante sulla commedia dell'arte. Avremo la compagnia Le Vie del Ful, che ci porteranno Requiem for Pinocchio, recentemente stato al Teatro India di Roma, e degli altri appuntamenti poi in febbraio e marzo. Un'altra compagnia romana, Emiliano Valente e Valeriano Solfiti, che presentano un debutto di un loro nuovo lavoro, e chiudiamo poi in marzo con Andrea Di Palma, che verrà a fare l'Interraneo, uno spettacolo che racconta un po' un percorso attorno al nostro mare, quindi parla un po' di un tema caldo in questo periodo, che è quello dei migranti. Senti Rosario, oltre alla vostra compagnia ci sono anche altre strutture che portano avanti questo progetto? Sì, c'è un collettivo numerosissimo di associazioni che possono e devono partecipare al progetto, perché il progetto di app prevede proprio quello, la messa a disposizione di una struttura per fare cultura da tutti i punti di vista, quindi cultura teatrale, cultura sociale, cultura educativa, quindi siamo apertissimi a ricevere proposte per spettacoli, per laboratori, per presentazioni di libri e per qualsiasi altra idea venisse in mente a qualsiasi associazione che ci sta ascoltando e che voglia interessarsi al progetto. Abbiamo un indirizzo mail dove accogliamo queste proposte, che è info@appaccademia.it. Le vagliamo, facciamo una serie di incontri, una serie di riunioni mensilmente, dove si parla di tutte queste proposte, si mettono assieme e si realizzano, perché poi il nostro intento è quello di realizzarle, di mettere a disposizione lo spazio per il quartiere, per la città e davvero per tutti. Ecco, proprio a questo proposito è giovedì l'apertura ufficiale, poi ci saranno dei giorni e degli orari di apertura del posto? Allora, il posto è all'interno di una scuola, quindi non è praticamente sempre aperto a chiunque. Ok, quindi orari scolastici. Sì, va organizzato un calendario e c'è una bella disponibilità, devo dire, dalla preside, dalla vicepreside, dal parco docenti a prendere le nostre iniziative e farle diventare realtà all'interno della loro struttura. Sì, quindi sì. Vanno organizzate, ma abbiamo abbastanza libertà per poterle realizzare tutte. Bene, bene. Senti Rosario, una postilla relativa proprio alla compagnia Ragli, per questa stagione dove sarà possibile vedervi? Guarda, allora partiamo domani, andiamo facciamo l'Italia se desta per Residenza Idra, quindi a Brescia, per poi ritornare il 18 di novembre a Castelfranco Emilia, dove faremo sul gioco d'azzardo, e poi saremo a Napoli in dicembre a questo nuovo teatro che è aperto dall'anno scorso, si chiama Tram Teatro, e lì faremo Pane Nostro, che tra l'altro abbiamo anche letto da te in radio. Sì. Bene, allora, i riferimenti di questo nuovo teatro Accademia Popolare ce li hai dati, e a questo punto credo anche quelli della compagnia Ragli saranno, se ricordo bene, la pagina Facebook e il sito internet. Sì, www.compagniaragli.com e la nostra pagina Facebook. Che vi, insomma, andate a spulciarvi dove benissimo. Trovate tutto, sempre tutto di noi. Rosario, io ti abbraccio, ci si vede presto e ci sentiamo anche per le novità. Ricambio l'abbraccio, Federico, è sempre un piacere sentirti e un abbraccio a tutti i tuoi ascoltatori. Benissimo, a presto, ciao Rosario. Ciao, ciao Federico.